Antonio Russo per Radio Radicale, mi trovo qui a Tbilisi per seguire la situazione della Cecenia che, come al solito, soprattutto in questo ultimo periodo, è nel silenzio dell'informazione. Continuano i combattimenti, continua appunto questa strenua difesa da parte dei ceceni del loro territorio e della loro indipendenza nei rispetti del governo russo e nei rispetti della politica di Putin, presidente appunto della Federazione Russa. Dobbiamo tornare purtroppo sulla sorte di Antonio Russo. Abbiamo detto questa mattina di una telefonata che ci era arrivata dalla unità di crisi della Farnesina, che ci aveva comunicato della scomparsa dal suo appartamento di Tbilisi del nostro Antonio Russo, che come sapete segue da mesi la situazione del Caucaso per Radio Radicale. Poco fa ci avevano comunicato dalla unità di crisi del ritrovamento di un cadavere alla periferia di Tbilisi. Non vi abbiamo dato questa notizia naturalmente fino a che non abbiamo avuto la certezza che si tratta proprio di Antonio Russo. Il 16 ottobre del 2000 il giornalista di Radio Radicale, Antonio Russo, viene barbaramente ucciso. Il suo cadavere viene ritrovato a circa 25 chilometri da Tbilisi, la capitale georgiana, dove il giornalista corrispondente si trovava per seguire tutti gli avvenimenti della guerra del Caucaso. Noi siamo collegati con il ministro Deodato, funzionario dell'unità di crisi della Farnesina. Ministro. Lui evidentemente si era spostato per ragioni che ignoriamo e forse faceva anche parte un po' del suo lavoro, quello di avere dei contatti, però ignoriamo praticamente tutto sulla dinamica degli eventi. Antonio Russo, difensore dei diritti dei ceceni. Giorgio Ferraresi, giornalista dell'ANSA e membro della Freelance International Press. A 5 anni dall'omicidio di Antonio Russo, un omicidio che è ancora senza demandanti, se non quelli politici, di cui purtroppo non si possono avere delle prove concrete da portare in un'aula di tribunale. Il modus operandi di questo assassinio, che è avvenuto, come dicevo, a Tbilisi in Georgia, zona dove i servizi segreti russi sono molto forti, c'era allora Shevardnadze che era molto legato ai russi, Shevardnadze era presidente della Repubblica Georgiana. E il modus operandi è tipico dei servizi segreti, cioè hanno fatto sparire tutta la documentazione che appunto Antonio Russo aveva con sé. Poi anche un'altra cosa mi ha molto insospettito, cioè la reazione di Gorbaciov, il quale evidentemente deve essere abbastanza amico di Putin, perché quando Gorbaciov è venuto a Roma per il convegno dei premi Nobel per la pace, parlo di circa un anno fa, ecco, e lui ha risposto nel corso della conferenza stampa, ha risposto con molta cortesia alle mie domande, ma quando io ho portato il discorso su Antonio Russo, ho citato Antonio Russo, è diventata una belva, si è scatenato, non mi aspettavo, effettivamente Gorbaciov mi ha molto deluso, e si è scatenato e ha cominciato a urlare, niet, niet, niet, e il suo collaboratore dice, Presidente non può parlare di queste cose, beh insomma tutto questo insospettisce evidentemente, notare che io non avevo neanche ancora accennato ai servizi segreti russi, ma lui ha capito che sarei andato a parare lì e quindi ha voluto interrompere il discorso. Ecco. Antonio Russo per Radio Radicale, qui da Tbilisi per dare aggiornamenti su quella che è e continua ad essere la problematica cecena nell'area del Caucaso. I combattimenti continuano a essere ancora in area e soprattutto è interessante che si sono allargati nell'area dell'Inguscezia, Inguscezia che è sempre territorio russo confinante con quello ceceno, dove si sa dalle cronache precedenti fatte dalla nostra radio, in cui ci sono più di 200.000 profughi rifugiati ceceni, appunto, che durante l'infuriare nel periodo invernale dei combattimenti fra i russi e i partigiani ceceni si erano recati appunto nell'area inguscita per avere una maggiore garanzia di sicurezza. Antonio Russo è stato un giornalista che sempre si è schierato dalla parte dei più deboli. Le sue corrispondenze dal Kosovo, quando fu deportato direttamente insieme ai kosovari, fanno parte della storia del giornalismo italiano.